come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Il silenzio continuo, sono almeno le sette, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare. Forse qualcuno mi sente, qualche vecchio amico mi sente. Sicuramente sono in molti a sentirci, due zanzare grosse come cani, no, però due zanzare qui presenti a Roma, 800 24 00 24. Inizia così bella la zanzara questa, di questa sera. E naturalmente inizia con la certezza quasi matematica, sì, che domenica o lunedì il Presidente della Repubblica, probabilmente lunedì mattina, sì, in apertura dei mercati, forse, sì, prima, darà un incarico al professor Monti. Oh. Vuoi fare un piccolo editorialino come al solito? Sì, molto sobrio. Parenzo? Dopo 17 anni di governi di centrodestra e centrosinistra, incapaci di fare le riforme strutturali per questo paese, liberalizzazioni, riforma fiscale, abolizione degli ordini professionali, arriva l'Europa, deve arrivare Monti, io voglio ministro Trichet, che ora non ha un cazzo da fare, venga a Roma a governare lui, noi non dobbiamo fare più nessuna legge, devono scrivere tutto dall'Europa, non solo approvare a testa bassa le grandi riforme, tutti gli altri a casa, a casa. Benissimo, questo è l'editoriale di apertura di Parenzo, sì, come al solito. Non è forse dello stile del Sole 24 Ore, però 800 24 00 24. La russa, D'Alema e la russa insieme, una forzatura della natura, e questo oggettivamente è così, perché si aspetta OGM. Un governo PD, sì, PDL, terzo polo. OGM. Fini con chissà chi del PDL, probabilmente chi lo appoggerà, e Fini insieme al PD, questo è meno innaturale forse. Comunque, la russa. Io personalmente ho sempre sostenuto, e quindi non cambierò idea, che mettere insieme politicamente, in sede politica, D'Alema e la russa sia una specie di forzatura della natura stessa della politica. Per il resto, vedremo. Beh, insomma, la situazione anche nel PDL è in evoluzione. Fra poco sentiremo un esponente del PDL, un ministro che è qui con noi. Pantare. Beh, ministro. Cosa? Ministro? Sì, ministro ancora per poche ore, però ministro. Beh, ministro. Sì, per poche ore. No, sì, per poche ore. Per poche ore, per poche ore. Adesso fra poco già lo presentiamo. Sì, penso che stia già facendo gli scatoloni, però adesso ce lo dirà. Brunetta, che invece è uno di quelli che rifiuta questa ipotesi e che vorrebbe convincere Berlusconi o il PDL, sarà molto complicato, a prendere una posizione sulle elezioni, una posizione drastica sulle elezioni. Brunetta, cosa dice il signor Brunetta? Primo, che non esistono cretino, governi tecnici, che sei cretino, e sarà un governo politico, e poi che Monti non ha la bacchetta magica, e dove sono i mandrache? Questa l'amico Mario Monti ha fatto per 10 anni il ministro europeo, cioè il commissario europeo, tra l'altro nominato tutte e due le volte dal presidente Berlusconi. Quindi è una personalità di grande prestigio. Non è neanche lui la bacchetta magica, nel senso che è un bravissimo professionista, in Europa ha fatto molto bene, perché vede, il governo dei tecnici risolve i problemi dell'Italia. E dove sono questi mandrache che risolvono i problemi del paese che nessun altro è riuscito a risolvere prima? La Lega, già abbiamo detto, abbiamo già dato ieri, risentiremo più avanti la posizione di Borghezio e di altri, che quella più o meno ormai è riallineata a quella di Bossi, da un certo punto di vista. Sì, detta con altre parole. Bossi che dice no a Monti, bisogna andare al voto, è bello stare all'opposizione. Mi piace più come ma c'è anche la posizione di Di Pietro, che oggi ha fatto, anzi ieri ha fatto una mezza gaffe, ripetuta oggi, sul fatto che mettere insieme PD e PDL è come mettere due uomini, cioè una cosa innaturale, associazioni gay scatenate contro Di Pietro. Di Pietro. Come si fa a mantenere il programma? Ma che senso ha stare insieme Di Pietro su un sistema bipolare? Uno sta da una parte, uno sta dall'altra. Se non vanno d'accordo, si va dagli elettori e si dice quale programma e quale coalizione vuoi votare. Questa idea di metterli insieme è un matrimonio famoso. Ancora Di Pietro sui maschi nella stessa camera che non fanno figli. Due maschi non fanno figli. Associazioni gay scatenate. No, io credo che il PD, dopo un mese, due mesi che avrà appoggiato questo governo, parte il PDL dall'altra, entrambi si accorgeranno che non possono stare insieme, perché due maschi dentro una camera da letto non hanno figli, e si dovrà creare una coalizione bipolare, e noi rilanceremo nella coalizione bipolare un patto, il patto di Lastra, che fa un programma e lo chiede a niente. Apro la radio, la tele. Bene, siamo qui con Gianfranco Rotondi. Buonasera, ministro per l'attuazione del programma. Ministro. Come sta? Ministro. Stiamo dicendo ancora ministro. Ma sa che il presidente Cossiga, sì, quando fu eletto presidente della Repubblica, disse: sono felice perché un giorno sarò un ex presidente della Repubblica. Dunque lei è felice in queste ore, corono, tra queste ore che mancano, corono il sogno di essere finalmente iscritto al club degli ex ministri. Ah, lei ormai sta coronando questo sogno. Beh, certo. Ma gli scatoloni l'ha già fatti? Ha già fatto tutto? Li avevo fatti il 14 dicembre dello era scorso tutto anno, già imballato. Confesso. Era ancora tutto imballato. La gran parte è già imballata da un anno, quindi siamo abbastanza pronti. Ah, cosa deve finire? Cosa c'è da mettere ancora dentro gli scatoloni? Ma qualcosa che mi porto sempre negli uffici dove lavoro, foto di famiglia, qualche collaboratore che purtroppo è andato in cielo prematuramente, quindi rimane con me da anni, ecco, cose personali. Cioè, mette i collaboratori nello scatolone, no, no, voglio dire, no, c'è la foto di amici scomparsi, morti, e quindi non avevo capito, cose personali, in parole povere. Mancano solo quelle, però c'erano già gli scatoloni pronti da un anno con alcune cose. Sì, la gran parte delle cose di archivio, documenti, eccetera, erano già da un anno lì, e siccome cioè, per un anno siamo andati con un rinnovo a contratto settimanale, non li ho mai rimessi a posto. Questo è buono, eh? Però dall'idea di quello che è successo, eravamo a contratto settimanale in pratica. Sì. Senta, ministro Rotondi, però dopo questo periodo da ministro per l'attuazione del programma, ci vuole dire una parola definitiva su questo ministero? Perché noi io e Parenzo siamo sempre rimasti convinti, non solo noi naturalmente, che oggettivamente il prossimo governo può fare a meno del ministero per l'attuazione del programma. Cioè, lei è stato ministro, per carità, però eliminiamolo sto ministero. Cioè, posso dire? Cioè, mi sono sentito inutile, non lo può dire? No, è un falso problema, perché è il dipartimento... No, sa perché è inutile? Dico solo perché dice il ministero si chiama per l'attuazione del programma. Il programma è stato attuato, no, quindi... Ma no, a parte quello, uno può essere attuato o meno, però... Tecnicamente... No, non è così. No. Il dipartimento per l'attuazione del programma, la presidenza del consiglio, cioè dal 1990... Sì. Vabbè, tutti i governi hanno una struttura di monitoraggio dell'attività di governo. Però non è che ci vuole il ministro. Quando è stato istituito il ministro che sovrintende a questo, che ruolo si è inventato in realtà? Un ministro che coordina la sinergia programmatica di ciascun ministro. Ma per già dire... complicato a spiegarlo, coordina la sinergia programmatica. Noi le vediamo veramente bene, perché lei è simpatico. Dopodiché, bravo, quindi, dopodiché è possibile che Monti o chi farà il governo lo abolisca. Sì. Non è una scelta che, diciamo così, diminuisce le spese, perché la struttura la sta e nessuno la può togliere. Il ministro perché sono comunque stipendio, cose. Io posso dire, nel lei mio caso, persone in piazza, nel mio caso hanno sono stato abbastanza economico, no, perché, avevamo 8 milioni in bilancio, Tremonti ce l'ha tagliata sempre di più e io ho speso sempre meno di quello che lui ci ha lasciato. Eliminiamo quindi... pure quello, ministro, su, non è utile. Posso dire, sono scelte di chi farà il governo. Senta, allora, in una giornata così dove non è avere certezze è molto complicato. Il PDL riunirà i suoi uffici, i suoi dirigenti, eccetera, eccetera. Lei in mattinata ha detto: se il partito voterà a favore del governo di unità nazionale, del governo Monti, io addirittura sono disposto, mi sento di lasciare la Camera. Di lasciare la Camera, cioè di dimettermi. Conferma questa cosa? Lei, se sì, sarà il governo Monti a appoggiare il PDL, si dimetterà? Perché? Spieghiamo perché a chi ci ascolta. Con questa legge elettorale, ed io non me ne scandalizzo perché succede lo stesso in Germania e in tutta Europa, quindi il fighetto che dice quanto è brutta sta legge elettorale non ve la vengo a fare, perché è uguale alla gran parte dei paesi europei, dove le preferenze non ci sono. E quindi quando non ci sono le preferenze, è il partito che ti mette in lista, perché poi se nel collegio ce ne sono due, se vuoi essere uno dei due è sempre il partito che ti ci mette, quindi non giriamo intorno alla solita sciocchezza che tutti dicono, questa legge, quella legge, con tutte le leggi il partito che fa le liste, il partito è sempre un po' tiranno. Allora? Quindi, siccome mi ci ha messo Berlusconi in lista, e anche al governo mi ci ha portato lui, non ho vinto un concorso, io in questa occasione non sono d'accordo con Berlusconi. Oh, oh. Non sono d'accordo con Berlusconi, posto che Berlusconi abbia preso una decisione, perché come lei sa, lei ha incontrato Berlusconi ieri notte, mi sembra che le idee... Poche idee, ma confuse. Sono, grazie al cielo e per fortuna di Berlusconi, uno dei pochi che esce da casa sua senza raccontare quello che ha detto, per cui non farò un'eccezione. Lei dice a differenza della signora Polanco, no, della a differenza di tutti, perché la prassi nel nostro partito, che ha tutta la simpatia delle cose ancora un po' goliardiche giovanili, perché è un partito giovane, cioè, nato da due anni, ognuno va lì e racconta per il 30% quello che Berlusconi ha veramente detto. Per il 30% quello che gli piacerebbe avesse detto, e per il 30% inventa a mano libera. Vabbè, però è vero che è confuso. I vostri colleghi che stanno lì fuori. C'è un po' di confusione sotto il sole. Io, ripeto, mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché non sono abituato. Nemmeno questa. Dico solo una cosa. È confuso o no? Dico solo una cosa, non siamo d'accordo. Potete quindi dedurre che, avendo io detto no a Monti, lui non ha detto quantomeno no. Ha detto sì a Monti. Lo sanno tutti. Allora, perché io ho detto dobbiamo lasciare la Camera? Non solo io, ma anche gli altri. Colleghi, no, quanti siete così? Siamo pochissimi, due deputati e un senatore. Vabbè, insomma, non cadrà l'Italia. Allora, apprendiamo via agenzie di stampa che il PDL, senza riunire gli organi, adesso già è cambiata la situazione, comunque, fine... perché c'è l'ufficio di presidenza, ma apprendiamo che si passa dal centrodestra al centrosinistra. Come, in che senso? No, si passa a un governo di unità nazionale? Io ho letto per 3 anni e mezzo che il nostro era un centrodestra, a me la cosa manco piaceva tanto perché io non sono mai stato di destra. Ma comunque, cioè, il PDL è nel PPE, dovremmo dire che siamo un governo di centro, no signore, mi metto sempre centrodestra, mi sono convinto, siamo adesso? Il centrodestra. Poi apprendo che si parla di un governo tecnico, però curiosamente anche con alcuni ministri politici, sempre leggendo le agenzie di stampa, non lo so, si parla di ministri anche politici, di sinistra e di destra. Chi vedrebbe lei? O non chi lo non so, vabbè, io insomma, dico solo una cosa, che è avvenuta una mutazione genetica per cui il presidente Berlusconi, eletto col centrodestra, diventa un parlamentare che appoggia il centrosinistra, che è lui stesso. È lui il partito centro. Berlusconi? No, lui il centro è avvenuto, e la sinistra e la destra insieme. Allora, delle due, l'una. Delle due, l'una. È lui che ribalta la maggioranza. Sì. O sono io che vado fuori squadra, perché il mio leader mi dice è un capolavoro. Il mio posso leader mi dice abbracciarla proprio anche fisicamente per quello che ha detto. Comunque, assolutamente. La conferma, lei si dimette assolutamente o no, sì, oh, se ci sarà Monti si dimette. Vado o no? No, adesso c'è uno stadio intermedio. Vabbè, cerco uno stadio intermedio, cerco di fare in modo che non ci sia Monti, perché ma quello ormai e che fa? Cioè, si punta, non lo so, si punta per strada. Che fa? Abbiamo si davanti un ufficio di presidenza, abbiamo un ufficio di presidenza. Ma i giochi sono fatti. Io faccio una battaglia sabato, quando sarà convocato, perché il partito non vota. Ma è fatto ormai. Ma Monti al tempo. Ma come al tempo? Ma Monti non è una splendida merda con i calzoni? In 24 ore il PDL è passato dall'annunzio delle elezioni a Monti alla ipotesi di un governo Alfano, alla ipotesi di un governo Letta, alla ipotesi di un governo Monti tecnico, alla ipotesi di un governo Monti politico. Credo che nemmeno al tempo della standa ci fosse un catalogo così ricco. E questo è meraviglioso. Bello. Traffico, queste sono le evoluzioni che ha avuto Berlusconi. La standa, lui lo dice. Berlusconi come ma la Berlusconi standa. È passato attraverso tutte queste ipotesi. E oggi Berlusconi come la standa è bellissimo. Traffico. Bellissimo. Il silenzio continuo. Sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie. Ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali. Sembrano zanzare. Eccoci qui 800240024, la zanzara qui da Roma con Gianfranco Rotondi, che ha appena confermato che cosa? Che se ci sarà un governo Monti appoggiato dal PDL, ma non potrebbe non nascere senza un appoggio del PDL, si dimetterà. Però qui ci vuole un giuramento, perché non è che le parole stanno le chiacchiere, ormai stanno. Io la restituisco il mandato a chi me l'ha dato, che è Berlusconi. Vabbè, come si dimette dalla Camera se ci sarà un governo allora, Monti? Allora, io il governo non lo posso votare perché è contrario in questi ai suoi principi. Allora dirò a Berlusconi che questa è la situazione. Siccome lui ha il diritto di avere tutti i voti dei deputati che ha eletto, gli offro le dimissioni e Fini può programmare prima della fiducia la votazione delle mie dimissioni. La scelta è di Berlusconi. Allora, ah, quindi lei comunque si aspetta che poi Berlusconi dice no dai Gianfranco, no, resta dire, ancora posso un po'. Dire una cosa, a me non me ne frega nulla di quello lei la che pensione decido. L'ha già presa, no? Tanto. A parte che la pensione non è il mio principale, no, problema, perché però a me piace lavorare. Questo ma c'è un altro, però volendo l'ha già presa la pensione da parlamentare, cioè, no, ce l'ha già. La differenza tra me e i miei colleghi, per come andrà questo fine legislatura, è che se mi dimetto io smetto di fare il deputato adesso e loro tra un anno. E cioè? L'unica cioè differenza è questa. È una scelta che devasta il Popolo delle Libertà, lascia a terra la metà dei voti, prepara un altro centrodestra dove il Popolo delle Libertà è destinato a fare la fine della Democrazia Cristiana, che fece la legge elettorale maggioritaria pensando di arrivare prima e poi arrivò terza, cioè, e sparì. L'appello a Berlusconi è: se c'è Monti il PDL è finito, è io morto, dico distrutto. Non è il problema, non è Monti, io Monti vabbè, lo stimo, Monti, vabbè, il governo no, tecnico, Monti insomma. Chiariamo che io lo stimo, lo apprezzo, ma sì, non lo voto. È due volte uno dei nostri, perché da commissario europeo lo nominò Berlusconi, sì, poi? E precedentemente era nello staff di Cirino Pomicino, quindi di un governo democristiano. Questo però non è uscito fuori. Questo non è uscito. Beh, vi do una bella chicca. Quando Pomicino era ministro del bilancio. Beh, io poi sono custode dell'archivio riservato della DC, quindi sono, cioè, molto. Cioè lui era dimonti. Nello staff di Cirino, certo, Pomicino. Faceva parte dello staff del ministro del bilancio. Certo. Del ministro del bilancio, quello, lui, quello che venne accusato di essere uno degli artefici della politica italiana. Cirino Pomicino è un genio e essendo un genio ha messo sempre nei suoi staff gente quindi brava. Quindi la proprietà transitiva, Monti possiamo ha fatto il debito dire pubblico. Che Pomicino ha ribaltato la maggioranza e ha fatto dare l'incarico al suo consulente, se proprio vogliamo. E Monti ha la contribuito a fare il debito, cioè, pubblico, questo lei sta dicendo. Per carità, io dico solo che lui, Paolo Savona, erano tutti validissimi collaboratori del ministro del bilancio Cirino Pomicino. Scusi un attimo, ma frecciatina. Berlusconi alla fine ha già deciso, diciamo la verità, insomma, ha già deciso, perché lei dice che non alzerei i toni se pensassi che ha già deciso. Io sono abituato a vincere. Lei che parole cercherà di usare con Berlusconi? No, io parlerò nell'ufficio di presidenza e dirò che quando la Democrazia Cristiana ha fatto l'accordo con i comunisti ha dovuto interrompere quell'esperienza perché stava lasciando a terra metà dei voti. Ma non so più ed era la grande ma non DC. So più comunisti però. Certo, ma si dà il caso che il PDL li ha chiamati comunisti fino all'altro ieri. Sono anch'io convinto che non sono comunisti. Anche perché i comunisti, tutto sommato, alla fine erano più simpatici. Sì, del PD. Sì, a cominciare da Napolitano. Voglio dire, la vecchia guardia del Partito Comunista ci ha dato i Napolitano. Beh, anche Bersani. Gli Amendola. Mica arriva da ci ha dato i Togliatti. E Bersani viene dal PC, Ma la Bersani storia, viene dal PC. La storia civile del nostro paese è stata fatta per metà dai grandi comunisti che sono nella nostra storia e che la DC ha combattuto, fortunatamente ha sempre battuto, però li abbiamo sempre rispettati e alcuni anche amati. Scusi, penso ad Enrico Berlinguer. Oggi lo spread è un po' calato, poi è risalito, la borsa ha rifiatato. La cosa bella è che ormai lo spread è stato preso come i sondaggi di Piepoli, è diventato un elemento politico, con indignazione di economisti. Scusi, ma perché lei, questo disprezzo del Piepoli? È ancora dell'idea che sia stata che a far cadere il governo Berlusconi sia stata anche una congiura internazionale? Io non sono un dietrologo, ma dico che i mercati non sono robot. E allora? Sono persone che scambiano, lavorano, operano. E dunque? Se la sinistra italiana per 3 anni e mezzo è andata a raccontare che l'Italia era sull'orlo del baratro per colpa di Berlusconi, chi fa un certo mestiere magari non gliene frega nulla che per colpa di Berlusconi, ma annota che l'Italia è sull'orlo del baratro e alla dunque, fine se ne convince. Sono stati gli americani? La propaganda anti-italiana delle opposizioni fatta all'estero ha creato il baratro. Ha creato condizioni di discredito del paese. Il problema non è Berlusconi, ma il modo in cui è stata fatta la lotta a Berlusconi, cioè, ma secondo lei che è stata fatta all'Italia. Ma secondo lei i mercati internazionali ascoltano quello che dice Casini? No, ma mezza Italia che conta anche nel mondo è andata a raccontare che il nostro era il governo però che avrebbe voi, devastato. Voi le riforme strutturali non le avete fatte, Rotondi, non avete fatto niente in tutti questi anni di serio, di strutturale, di serio. Cerchiamo di dare una risposta. La Lega non voleva fare le pensioni, c'era Bossi che diceva le pensioni di anzianità non si toccano e voi non le toccavate. Per l'ultima fase della vita del governo. La politica economica del governo fatta da Berlusconi e da Tremonti, io non sono un detrattore del ministro dell'economia. Allora? È stata una scommessa sul presupposto della crescita della nostra economia. Però dobbiamo chiudere perché abbiamo. Non è andata così. La crisi non era nei patti. come la crisi non è voglio dire, ma... un governo deve affrontare le cose che accadono. Abbiamo affrontato la crisi, era una battuta naturalmente. Sì, certo. Abbiamo affrontato la crisi. Ma lei non si sente un po', non si sente un po'? Abbiamo affrontato la crisi su un presupposto che si è rivelato sbagliato. Ma in questi Ministro giorni come dell'economia si sente, ci ha in buona fede detto che era breve, era le nostre colpa sua dunque. No, voglio dire, purtroppo è stata una valutazione che è stata smentita da fatti che non erano prevedibili. Tremonti non ha capito. No. Giornale Radio 800240024. Grazie, grazie a Gianfranco Rodondo. Caro Parenzo, siamo quasi alla fine. Eccoci. Siamo quasi alla fine, che dici? Alla fine di tutto. Di cosa? Alla tutto di finito. Cosa? Alla fine il governo Berlusconi. Dice, almeno questo. Ma come dice? Però pare, sentiamo il TG3 se festeggia dai titoli. Voglio capire se... Ah, se la signora Berlinguer festeggia, se, dici? Se il TG3 festeggia, e lo si può capire anche dai titoli. Festeggia, racconta. Sì, però... Racconta. Se si capisce dai titoli che è cambiato qualcosa oppure no. Sentiamo. TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Napolitano, l'Europa attende segnali, Italia all'altezza, forse già domenica l'incarico a Monti, telefonata con Obama, Mili Smaghi si rimette dalla BCE. Il PDL si spacca sull'ipotesi di appoggio a un governo di larghe intese, Alfano siamo per il voto ma decide il Colle, la Lega, noi all'opposizione. Anche Di Pietro dice no a Monti, ma dai blog molti simpatizzanti lo attaccano, a sinistra parziale apertura di Vendola, sì all'emergenza purché a tempo. Mario Monti da Berlino parla dell'Italia, c'è un enorme lavoro da fare, a cominciare dalla rimozione dei privilegi e degli egoismi territoriali. Bruxelles prevede per l'Italia crescita zero e niente pareggio nel 2013, fare di più per le pensioni, la BCE pronti a misure aggiuntive. Frena lo spread, ma i bot volano al 6%, il massimo da 14 anni e ora anche i titoli francesi sono sotto tiro. Nuovo agguato a Roma, in pieno centro, un pregiudicato ferito nell'ora e nelle vie del passeggio serale, 28 omicidi dall'inizio dell'anno. Va bene, va bene, siamo qui 800240024 e direi di scaldarci un po', che dici? Sì, beh, Borghezio di ieri, voglio, da Bruxelles. Voglio farti, come dire, voglio farti, no, non sei depresso, però. No, però voglio devi darmi la carica. Ancora di più. Borghezio allora, ieri a Bruxelles, ti prego, dove eravamo? Sì, te lo faccio sentire subito. La posizione della Lega sul governo Monti è abbastanza chiara. Siamo all'opposizione, no al governo PD, PDL, UDC, eccetera, eccetera. Diciamo che è stata espressa in maniera plastica, non... No, genuina, ma nello stesso tempo corrosiva e anche forse un po' insultante. Io direi molto insultante. E come oggi titola qualche sito, da Mario Borghezio, che è vero che interpreta il Borghezio pensiero, come lui stesso ha detto. Però la base della Lega la pensa così. E però, sentiamo. Questo governo di larghe intese che si prepara, come lo definisce lei? Come lo definisce? Una grande putanata. E non è espressione della volontà del popolo, quindi una grande truffa, per essere più precisi. Un imbroglio. Con tutti i suoi difetti, il governo Berlusconi è l'espressione di una volontà popolare. E questo è sul governo di larghe intese. E qui è ancora moderato. Beh, insomma, moderato per modo di dire. Ha usato solo la parola puttanata. Sì, ma insomma, appunto. Sul senatore a vita, sulla nomina a senatore a vita, mandatemi questo da Milano. Monti, te conviene rifiutare? Che cazzo ti tieni sta medaglietta che non serve un cazzo? E poi sto governo, sto Parlamento, chi lo sa quanto dura? Meno dura, meglio è. Non abbiamo bisogno di un altro senatore? Questo voglio sentire, non abbiamo bisogno di un altro senatore? A Mario, te conviene rifiutare? Te lo dice Italia Profonda. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. Non vanno a votare. E questo dice il popolo di Roma. Borghezio, il romanesco è strepitoso. Un linguaggio, strepitoso. Linguaggio aulico. Io rivendico la dignità di queste cose, perché non sono d'accordo in buona parte, non però insomma. No, io totalmente sono in totale disaccordo. Proprio. Tu sei in totale disaccordo. Borghezio. Sì, poi dice anche che Monti rappresenta l'alta massoneria, addirittura. Monti chi rappresenta? L'alta massoneria, quei poteri forti, quei signori che io volevo andare a sentire al Bilderberg, che ancora molto educatamente mi hanno cacciato calci in culo. Quei poteri super forti che periodicamente impongono il loro uomo. L'hanno imposto al sempre di Amato, adesso imporrebbero Monti. Ma lo sbrocco finale di, sì, di Borghezio ce l'abbiamo. Sì, quello dove non siamo riusciti a placarlo. L'hanno preso a Milano lo sbrocco finale, sì, l'abbiamo tagliato, no? In questo climax crescente. A un certo punto io l'avevo anche liquidato. Sì. Allora grazie Borghezio, ci grazie rivediamo la prossima volta. Con noi, ci rivediamo la prossima volta. Grazie di essere stato con noi, lui, come al solito, buona Padania, sì, sì, va bene, sì, buona Padania a tutti, eccetera. Grazie, arrivederci. A un certo punto è partito per Adagente, non si poteva trattenere, c'era. Ci siamo alzati in piedi, ci siamo alzati in piedi, basta Carlo. La prego, la smetta, pur sempre Radio 24. Sentiamo. Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Ma Filippo com'è? Da Grosseto. Padania libera, Radio libera, libera, libera. Ma subito, ieri. Libera Roma, puzza, Roma puzza, sciolo la Padania. Sciolo, sempre sciolo la Padania. Se gli altri non ce ne frega, un emerito cazzo. Padania libera, libertà, libertà, libertà. Caricato, tocca caricato. Il linguaggio di un uomo di governo. No, veramente non è mai stato governo. Anzi, sì. No, anzi, è stato sottosegretario agli interni. No, alla giustizia. Alla giustizia. Sottosegretario alla giustizia. Tu che sei il principale esegeta interno. Uno dei biografi ufficiali. Come fai a sbagliarti su questa cosa? Un errore grave da magistrato. Sottosegretario rossa. Blu. Sottosegretario alla giustizia. Del primo governo Berlusconi. Sì. Tu che dall'inizio abbiamo sentito. Uno dei primi sottosegretari del governo Berlusconi del 94. Me lo rimandi un attimo, perché no, l'ultima più tardi, volta. Più tardi, ti prego. No, soltanto l'ultima però parte. Il contrasto era ben ieri, in due posti diversi, non insieme. C'era Borghezio con noi a Bruxelles. Sì. In contemporanea quasi. Piano più sopra. Due piani più sopra. Sempre a Bruxelles. Nell'emiciclo del Parlamento europeo. C'era quest'uomo qua. Chiedo scusa per l'ingestatura, ma purtroppo mi è venuto addosso una persona in Italia che ha deciso di fare un passo indietro. Mi è saltata proprio. Ho detto proprio ora. Stavo lì tranquillo, mi hanno detto non ti preoccupare, non si muove, non lo fa. Io ero tranquillo, proprio ora che ero dietro io. Sì. Ma guarda la combinazione, non è vero, sono caduto. È un periodo di cadute in Italia, cadono molte persone. Siamo qui. Stefano da Milano ci ha chiamato. 800 24 00 24. Sì, buonasera Stefano, dica. Stefano Boeri? No, non è Stefano Boeri, è un ascoltatore, si chiama Stefano da Milano, non fa l'economista, è una persona. Pensava fosse Stefano Boeri. Che, diciamo che politicamente provengo dall'MSI, solo questo. No, nessuno è perfetto, dico ma benissimo. Che c'entra? Perché provenire dall'MSI? Va benissimo, però. L'intervento di Parento che diceva che abbiamo bisogno di gente che venga da Bruxelles ad aggiustarci un po' le ossa qui in Italia. Così sostiene Parento. Sì, io voglio proprio un governo. Tu vuole un governo di tecnocrati. Tecnocrati. Queste cose perché, innanzitutto, noi in Italia dovremmo essere capaci di farle queste cose, che appunto abbiamo della gente incapace, questo. Bravo. Sicuramente, ma sicuramente c'è da dire anche questo, che se viene gente dall'estero, tipo della Banca Centrale, non vengono sì per fare gli interessi di noi italiani, ma visto che la Banca Centrale comunque dovrebbe essere vicina alle altre banche, visto che è una cosa privata, l'interesse degli speculatori. Chi è che farebbe, come dire, Monti non farà gli interessi degli italiani? Ma io credo che Monti, essendo un uomo che ha lavorato per Goldman Sachs, come Mario Draghi, per quel che mi risulta, potrei sbagliare. Anche per Pomicino ci ha rivelato prima Rotondi. Sì, ma Goldman Sachs. La cosa peggiora ancora il mio giudizio in merito. Però guardiamo a quello che vuole fare Monti adesso. Ma Goldman Sachs, e si evoca Goldman Sachs, non è mica l'andrangheta. Il problema, guarda, io le dico come la penso. Le cose che vuole fare Monti, da quello che ha detto negli ultimi anni, eccetera, sono tutte cose molto positive. Oh, il problema che la politica è che una cosa è fare il professore, un'altra cosa è fare il capo di governo. Andrea da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Io sono proprio incavolato nero. Con che cosa? Sulla nomina di Monti senatore e sulla nomina forse anche di Monti presidente del Consiglio. Ci hanno rotto le scatole un po' tutti politici, televisioni, per 5-6 anni che questa legge elettorale faceva schifo perché non si poteva nominare il politico nostro in Parlamento. Adesso viene dall'alto nominato uno senatore a vita, in più presidente del Consiglio senza passare dalle urne. Mi sembra una cosa folle, nel senso, siamo in un periodo, si va alle elezioni, se Monti vuol fare presidente del Consiglio fa una lista e io sono e d'accordo con lei, io sono d'accordo con lei al 100%. Ma lei, per me l'unica strada, la strada maestra è sempre una sola. Ma vi siete accorti di cosa sta accadendo in Italia e nel mondo? No? Ma vi siete accorti di cosa sta il centrodestra e il centrosinistra non sono in grado di fare queste cose, perché riformare le pensioni è impopolare. Non esiste la Thatcher in Italia, purtroppo. Agli elettori, la parola agli elettori. Ma gli elettori, i due, centrodestra e centrosinistra non sono in grado. Non ci sono. No, no, no. Commissariamento. Vabbè. Governa Trichet, viva Trichet, viva la BCE, viva Goldman Sachs, viva le banche. Christian da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Ma io volevo sottolineare il fatto che come le varie dichiarazioni di tutti coloro che negli ultimi tempi sono passati dal FLI al governo e hanno ottenuto un posto di sottosegretario oppure un viceministro, ecco, io vorrei che voi non perdiate d'occhio queste persone e che cercate nuovamente di intervistarli, perché secondo me ora si dovranno ricollocare in qualche maniera, perché magari si sentiranno un po' precari in questo momento. Beh, c'è un deputato degli ex responsabili che si chiama Grassano, oggi intervistato da Antonello Caporale su Repubblica, se non sbaglio. Il signor Grassano, tesoriere, se non sbaglio, no? Sì, tesoriere dei responsabili. Tesoriere sì, dei responsabili, nonostante sì, una condanna, eccetera, eccetera, ma questo non ci interessa. Vabbè, il quale dice: beh, io che cosa faccio? Berlusconi mi aveva assicurato il seggio, comunque alla rielezione, mi sento spaesato se non fossi, no? Se non fossi più in Parlamento, sono perso il lavoro. Sì. Ho capito. Sono disoccupato. Un disoccupato in più, cioè ce ne faremo carico. Che Borsa, torniamo tra un attimo, sempre 800 24 00 24. La Zanzara, Borghezio lo rimettiamo, non vi preoccupate, lo rimettiamo. Meno il male. Romanesco che insulta Monti. Meno male. Bene, bene, bene, siamo qui, 800 24 00 24, in attesa del governo Monti. Ma che è Mandrake che risolve tutti i nostri problemi? Se non sono stati in grado di fare nulla fino ad oggi, nel centrodestra e nel centrosinistra, arriva Mandrake. Intanto sentiamo come alle Iene rincorrono i deputati che non sanno che cos'è lo spread. Protagonista principale, la signora Fede, cioè De Feo. Sentiamo. Quando si parla per esempio di aumento dello spread, che cosa si intende? Per favore, io sto dicendo che sto andando al Senato, lo vede che sto andando a piedi? Grazie. No, lo so a piedi, no. Okay. L'accompagniamo un pezzetto. Che cos'è questo spread? La differenza, aumenta la differenza. La differenza di che? Il differenziale. Senta, la vuole piantare o la devo picchiare? La vuole piantare che devo andare al Senato? Mi scusi, mica ho fatto nulla, le ho fatto una domanda. Ho spiegato, gli ho risposto alla domanda? No, veramente no, se non vuole basta che me lo dice. Ma non è l'unica, sentiamo il signor Briguglio, futura libertà. Ah, come no. Quanto ammonta il debito pubblico in Italia attualmente? In che senso? Cioè, quant'è il nostro debito pubblico? I soldi, dico, quanto è il nostro debito pubblico? Beh, è incalcolabile, viene da lontanissimo. Incalcolabile? Cosa gravissima dire incalcolabile. C'era UDC. Cesa o c'era? C'era. Mai sentito, credo che sia UDC. C'era UDC. Mai sentito, signor Cera? Si legge tutti i giorni, per esempio, che aumenta lo spread, no? Che cosa vuol dire? Le famiglie oramai hanno totalmente messo... si sono completamente disseccate di quei pochi risparmi messi da parte, per cui si consuma molto di più rispetto a quello che si produce. Quindi quello spread che cos'è? Aspetta, è la differenza fra quello che si produce e quello che uno realmente spende. Che cos'è Standard & Poor's? Guarda, io l'inglese non lo conosco, io parlo in italiano e per quanto mi riguarda non ci so rispondere su questa domanda. Ma hai sentito Standard & Poor's che si sente? Lo leggo, lo riesco anche a capire, ma non te lo riesco a spiegare. Lo leggo, lo riesco anche vabbè. A capire. Vogliamo sentire l'ultimo? No, sentiamo Lucci che è andato a trovare il nostro amico Saia. Io lo adoro Lucci, il fascistone, sì, il fascistissimo, il nazista. Sentiamo, ti prego. L'hanno accusata di essere contro i gay. Per esempio, mi dica, chiamano omosessuali, gay è una parola che io non conosco. C'è qualcuno che dice, una volta li chiamavano ricchioni, ora ci chiamano gay. L'hanno accusata di essere contro gli omosessuali. Perché sono una casta pericolosissima. Perché pretendono delle leggi a loro favore. Il signor Zaia. Sì, una casta sono. Li vede ovunque. Sono veramente numerosi, inseriti nei gangli vitali dello Stato. Ma egli. Non credo che un uomo e un uomo, una donna e una donna si debbano sposare. Avrebbe la soluzione. Per arginare questo squallido fenomeno. Beh, a questo punto sentiamo la soluzione di Zaia. Ma è tecnicamente pazzo questo uomo. Sì, sì, però non aggiungere. No, ma è strano però... che sia ancora in libertà uno così. No, ma veramente, mi dispiace. Basaglia ha fatto però, sto errore clamoroso di chiudere i manicomi. Via. Si dovrà impedire ogni nuova immigrazione di non italiani. Il signor Zaia, come li ferma, dice di ispirarsi. Si blocca la frontiera. Al diritto internazionale. La regola d'ingaggio è che va sparato una raffica a prua, dopodiché una raffica a bordo. Per chi varca i confini senza regolare autorizzazione. Se lei stesse al governo e arrivano sti barconi non con arrivano, tutti sti disgraziati. Non... Uso lecito delle armi. Cioè, gli spara? Gli sparano, ovvio. Sparano una raffica a prua e poi una raffica a bordo. Ma se sono una massa di ma disgraziati sono? Che ma non sanno manco le leggi... E saranno problemi che... loro. Io, governo, ordinerei di aprire il fuoco. Ma molti stranieri li in Italia... Li mandiamo tutti a casa. E vabbè, poi dice anche che sarà il prossimo presidente del Consiglio al posto di Berlusconi. Ma lui? Vabbè, ma questo... Dai, è pazzo, sì, è follia, follia. Dopo questa cosa l'ha preso e l'ha portato via. Giovanni da Napoli, buonasera. Non c'è più Emanuele della provincia di Ravenna. Buonasera. Dica. Sono Emanuele, chiamo sì, dalla provincia di Ravenna. Io volevo dire solo una cosa. L'abbiamo già detto. Sì. L'Italia è un paese strano. C'è chi come Scajola si ritrova una casa pagata. Mario Draghi, non Mario Draghi, Mario Monti si ritrova senatore come se non ne avessimo basta da mantenere. Ma per quanto tempo porteranno ancora pazienza gli italiani? A pagare una classe politica che ha mille privilegi, la prossima volta cosa prometteranno? Noi con i nostri stipendi cerchiamo di arrivare a fin del mese. E va bene poi? E poi questo. Scusi, ma adesso arriva. Senatore... Scusi un attimo, Emanuele, adesso arriva il signor Mandrake, però, l'uomo che risolve tutti i problemi. Non arriva alcuni. Nessuno, non arriva. Insomma, io qui... la penso come lei, però gli viene presentato come una sorta di Mandrake, cioè come allora, qualcuno che risolve qui... tutti i problemi. È un pleno potenziario. Quindi lo Stato non ha bisogno di più soldi perché ne incamera già abbastanza. Vabbè. Grazie Emanuele, grazie. 800 24 00 24. Con noi Giorgio Stracquadanio. Buonasera. Come sta? Fatto gli scatoloni. Un po' raffreddato. Senti, io non ho capito bene. No, gli scatoloni non deve farli perché non è ministro. Magari si vuole dimettere. Magari si vuole dimettere, non lo so. No, pensavo che parlassimo una cosa seria. Che mi piaceva questa cosa di Mandrake. Di Mandrake? Ecco, sì. Sì, perché c'è un elemento che nessuno ha messo ancora nel dibattito politico. Che è un po' alto. Che cerco di alto. Sentiamo. Siamo a 10 anni dalla nascita dell'euro. Sì. Abbiamo 2002-2012. Sì. 10 anni. Senti. Sì. Abbiamo fatto. Siamo alla prima vera crisi dell'euro. Sì. Abbiamo fatto una moneta senza uno Stato. Altissimo. Stiamo volando altissimo. Beh, però va bene. Andiamo. Ci arriva in casa, però. Sì. Ci arriva nella busta paga questo ragionamento. Sì. Sì. Poi. E abbiamo fatto una moneta senza avere il sovrano, senza lo Stato, che di solito. Perché di solito le monete sono nate dopo gli Stati. Dunque. Certo. Arriva la prima crisi. Sì. E succede che i paesi che fanno parte di questa moneta, cioè le province di questo impero euro, vanno in crisi. Mm. Che cosa succede? Alcuni, non tutti. Le province. Alcune province. Con calma. Quelle più deboli, più povere, più stupide. Vabbè. Senza un governo. Comunque andiamo avanti. Vabbè, lasci perdere. Lasci perdere la polemica. Ma alcune vanno in crisi, anche per la storia che avevano, o forse perché non dovevano entrarci, come la Grecia. Allora? E così via. Non importa per cosa. E allora la prima cosa che succede... che il governo greco tenta delle misure, poi non ci riesce, poi tenta di allargarsi, poi alla fine viene commissariato da un signore che è il vicepresidente del sovrano, la BCE. Ottimo. Poi arriva la stessa cosa in Italia. Sì. C'è un governo in carica, non fa quello che deve. Non fa quello che deve, l'ho detto io. Ecco. Quindi, cioè il governo non ha fatto quello che doveva fatto fare. Quello che doveva fare anche da prima. Anche da prima. Fa quello che deve. Anche gli altri governi prima. Sì, ma molti non fanno quello che devono spesso perché sono bloccati dalle loro costituenze elettorali. Non c'è dubbio. Le costituenze elettorali per gli ascoltatori che ci ascoltano sono dalle loro basi elettorali. Dal loro blocco sociale. O anche dai blocchi sociali che si contrappongono, per cui hanno paura di decidere. E si arriva a una sorta di commissariamento di natura europea, perché non è che abbiamo scelto un bravo professore, abbiamo scelto l'ex commissario europeo. Sì. Il Papa straniero. La terza cosa, no, non c'entra proprio, qui non è il papato, è più un impero con le province. Arriviamo a un passo superiore. Sì. E arriveremo alla crisi del debito. Per adesso alcuni paesi sono fuori. Sì. Arriveremo alla crisi del debito francese, che è più preoccupante di quello tedesco. Perché questo è uno scenario futuro, diciamo. A cinque anni. Arriveremo anche alla crisi. La profezia di Stragone. No, non è una profezia, è una previsione. La Francia crollerà tra 5 anni. No, la Francia ha una struttura statale. Vuole arrivare questo ragionamento, Stragone? Che il nostro problema è un problema sovranazionale, innanzitutto. Vabbè, quello. Quindi va visto in termini strutturali per capire come dobbiamo affrontarlo per il futuro. Però io voglio dire una quando cosa. Quando la Francia, mi perdoni, no, non mi faccia entrare nelle polemiche di tutti i giorni. Ma non è polemiche di tutti i giorni, però voglio dire, stiamo facendo un ragionamento adesso. E allora volevo arrivare al ragionamento. Sì. Quando la Francia, che ha una crisi che è forte, che è nella pancia delle banche francesi, sei delle banche nazionali francesi sono in default tecnicamente. Ahimè, purtroppo non quella che mi ha fatto il mutuo. Dunque? Perché ne potevo avere un vantaggio. Quando questa, siccome sono tutte banche di Stato, quando questa crisi si trasferirà sui conti pubblici della Francia, avremo un grande scontro tra questa nuova statualità che si sta costituendo, che si chiama BCE, e un ordinamento napoleonico. E quello è il giorno in cui forse si squaglia l'Europa. Non so se. Vabbè, però molto l'analisi, professor Stragolaglio, bellissima analisi. No, però io che vi vorrei se non ci fossero stati Rubi, Tremonti e la Lega, no, se non ci fossero stati questi tre fattori, avreste fatto le riforme e non saremmo stati commissariati dalla Banca Centrale Europea. L'ordine è sbagliato, però mutande, questioni di mutande. Le mutande, i mercati e Tremonti. I mercati non guardano le mutande. Però scusi, posso dare una cosa molto concreta? Posso dare una cosa molto concreta? Adesso io vi riporto sulla Terra. Ma non è che eravamo sulla Luna. Torniamo alle mutande. Sulla Terra, nel senso, quando cose tra cinque anni ore. Vedremo questi problemi, vorrei che lei mi limitasse. Tutto qua. No, ma non c'è problema. No, ma limitiamo anche prima. Io, però, quindi lei sa che starà in mondo per oltre 5 anni con la televisione. Ecco, questa allora, la notizia. No, quello sarebbe positivo, però non lo so. Ho tratto a Cruciani una notizia. Ho un contratto per 5 anni. Allora, io dico, io voglio chiedere una cosa. Voglio chiedere una cosa a Stragone. Lei il governo Monti lo voterà o no? Oppure no? Le dico una cosa di metodo. Che è di sostanza. No. Vabbè. Se sto in un partito carismatico, questo è il momento in cui le decisioni sono tutte del leader. Ma il leader ha già detto che lo voterà. Allora lo voterò. Lo voterà. Dunque, lei fa quello che dice Berlusconi. Sì. Ma le viene questo da vomitare o no? Le viene da vomitare o no? Perché mi deve venire da vomitare? Non so, magari Monti, da vomitare no, ma lei fa l'accordo con alla fine fate l'accordo con Fini e col PD. Con Bersani. Diciamo la verità. Straguadagno allora, governo con Bersani. No, beh, straguadagno governo no, perché nessuno gli ha fatto. Appoggia un governo di Bersani. No, Bersani è, Fini. È un po' più sofisticato. Non vorrei stare vada a spiegarlo ai suoi elettori. Lo sto per spiegare ai miei elettori. Perché il punto chiave è questo. Qual è? Sono le alternative possibili. Vanno guardate. Le elezioni, perché no? Perché lei è così fissato che le elezioni non si devono fare? Lei che è stato sempre quello della democrazia, il predellino, il predellino. Il popolo, il predellino. Adesso le elezioni non vanno più bene. Niente, manovra di palazzo. Beh, è strana questa cosa. Posso se voi mi fate un interrogatorio, io mi avvalgo della facoltà. No, è un bombardamento. È un bombardamento, ha ragione, basta bombardare. La domanda era chiarissima. Sì. Ma io devo dare le risposte, non devo essere sotto posto domande. Una risposta chiara l'ha data. Se Berlusconi decide di appoggiare il governo Monti, io sto con Berlusconi. Esatto. Che appoggia questo il è il metodo per cui si sta in questo partito. Benissimo. L'ho spiegato anche oggi in un'intervista al giornale, parlando del passato, quando sono stato accusato di essere traditore. Sì, vabbè, quello, lasciamo le cose no, è una spiegazione del passato. Sì, ma il metodo è uguale, il principio vale sempre se è principio. Lei però le ricordo che ha scritto una lettera insieme a persone che poi hanno lasciato il PDL, per cui Gava, non è che uno si è inventato. E che loro hanno lasciato la mia lettera. Sì, vabbè, anche può darsi, però ha scritto una lettera insieme a persone che poi hanno lasciato il PDL, dunque non è che la gente si è inventato che lei poteva tradire. Quando hanno scritto la lettera non avevano lasciato alcuni avevano già detto delle cose. Erano già fuori. Destro, no, Antonione. Non avevano lasciato il partito. Sì, praticamente erano già fuori. Antonione no, qualche giorno dopo. La però destra era già fuori. Noi, se uno vede fuori delle situazioni di disagio e condivide alcuni dei motivi di disagio, non tenta di ricondurlo in un'iniziativa politica? No, all'interno del partito. Comunque, non ci sono riuscito. 30 secondi. Quello non sono riuscito, ma è un'altra questione. 30 secondi e torniamo. Infatti non c'è più la lettera. Eccoci qui, 800 24 00 24. Allora, Stracquadanio, Giorgio Stracquadanio, nostro ospite qui in studio alla Zanzara a Roma, ci ha appena detto che se Berlusconi decide di appoggiare il governo Monti, lui non farà parte di quelli che teoricamente, come trapela da queste ore, potrebbero all'interno del PDL votare contro questo governo Monti. Ci sarà sicuramente qualcuno che voterà contro il governo Monti, su questo non c'è dubbio. Poi vedremo come si evolverà la situazione all'interno del PDL nelle prossime ore. Comunque lei voterà il governo Monti. Ora le voglio chiedere una cosa, Stracquadanio: perché elezioni no? È stata sempre l'abbandono bandiera del PDL, del centrodestra. Se cade un governo, elezioni, certo. Cioè, che dovevamo farlo il 14 dicembre. Quando noi ci siamo acconciati a fare un'operazione di palazzo non bellissima sul piano istituzionale, quella di raccattare dei responsabili, che assomiglia a lo shopping da Legnana, però lei l'ha difeso sempre, ha difeso lo shopping. Lei mi permetta di definire lo shopping, non l'ho difeso, ho difeso il governo, che era una cosa un po' diversa. Ha difeso il metodo dello shopping, della maggioranza. Non ha nessuna mia dichiarazione in cui io abbia detto cose. Ho detto che non c'è stato mercimonio economico, ma mercimonio politico sì, perché una cosa si era garantita. Però questa operazione l'ha difesa lei comunque. Sì, si era garantita, che l'ho difeso quando... Adesso sta dicendo che è stato uno sbaglio. Sì, certo. Una porcheria solenne. Dunque ci ha ripensato su questo. Ma non è un problema. Ormai è tutto finito. Amico lei Giorgio. Lei mi trae le conclusioni. Quello che a me non piace, che lei trae delle conclusioni con parole che io non uso. No, vabbè. Poi me le mette in comunicato stampa. Lei è sempliciotto. Io sono l'uomo del popolo. Io purtroppo comincio a pensare che bisogna stare nei palazzi del potere avendo letto, almeno per sintesi o per estratto, Carl Schmitt. Se non hai letto per sintesi o per estratto Carl Schmitt, non so se i suoi colleghi intervistati fuori dal Montecitorio non sapevano un cazzo della parola spread. E secondo lei a chi mi riferisco? Mica a lei. Forse a Tremonti? No, ai miei colleghi. Qualunque, modo indifferenziato. Io però voglio capire da... lei li ha intervistati sullo spread e io non ho voluto ascoltare quelle risposte. Perché le faceva male? Perché ho il cuore. Perché le faceva male? Sono un uomo di cuore. Le faceva male. Un dolore. Però quanti ignoranti ci sono in Parlamento? Lei che li conosce bene. Quanti purtroppo ignoranza c'è? Aveva ragione chi diceva che il Parlamento è lo specchio del paese. Cioè, gente, il 10% è meglio della società italiana, il 10% è molto peggio e tutto il resto è la società italiana. Cioè, quindi un disastro totale. Un'ignoranza abissale. Secondo lei, se chiede la parola spread in Ciro, cosa le dicono? No, ma d'accordo. Ci siamo all'80% di ignoranti. È inutile fare queste inchieste perché tanto si... No, ho detto che l'80% è come... sono paragonabili, non sono meglio degli altri, di quelli fuori. E il 10% è meglio, il 10% è peggio. Anche se io sono dell'opinione di Carlo Maria Cipolla. Cioè? Meglio un bandito che uno stupido. Fa molto meno danni un bandito che uno stupido. Dunque la cosa a chi è riferita? No. A nessuno, no? A nessuno. A nessuno. In generale. Non è che è riferita. In questi giorni sto rileggendo quel bellissimo libro di Carlo Cipolla, Allegro ma non troppo, che comprende le 5 leggi fondamentali della stupidità umana, che è tradotto anche in inglese. The Basic Law of Human Stupidity. Com'è? Scusi? The Basic Law of Human Stupidity. Stupidity. Io godo quando lei parla inglese, io godo. The Basic Laws of Human Stupidity. Ma io godo quando la sento così proprio. Godo. Come nel film Un pesce di nome Wanda. Se lei sentisse più spesso la BBC, sa che cos'è? La BBC? British Broadcasting Corporation. Conosco qualcosa di questo. Non c'è uno spread. È un servizio pubblico non lottizzato, a differenza di quello che avete fatto. Siccome mi intervista abbastanza di frequente, perché io ho fatto... Lei è intervistato dalla BBC? Ma è tutto finito allora? No. Cioè, straguadagno ospite della BBC? L'altra settimana quattro volte. Quattro volte? Sa perché? Banalmente, al contrario di quello che dice Dagospia, io parlo un buon inglese. No, ma l'ho sentito, infatti... E Dagospia dice che io parlucchio un inglese stentato. Invece? Invece parlo un inglese fluently, grazie a mio padre. Fluently? Sì, grazie a mio padre che mi ha mandato da ragazzo in Gran Bretagna e mi ha mandato in una famiglia... britannica e mi ha impedito di parlare italiano per un mese. Mi chiamate per telefono il signor Mario Platero dopo le 20? Voglio fare un test. Mario Platero, grande inviato del Sole 20, corrispondente del Sole 24. Non le chiamo una persona che è molto brava a parlare in inglese. Canterete insieme Yellow Submarine? No, e Stragualdano. Io posso dare il testo, ma non cantare. Le elezioni? No. Le elezioni, ho detto che sceglie il Premier, innanzitutto. No, vabbè, ma ho capito, Berlusconi ha già deciso. Questo ufficio di presidenza è inutile, sta qua, diciamo la verità, è inutile. Appunto, per cui io mi adeguo. Ma perché ha deciso per non andare alle elezioni? Secondo me... Dopo aver cambiato idea 5 volte in 24 ore? Non so che si è cambiato idea 5 volte. Beh, sì. Le assicuro che nel momento in cui io ci ho parlato aveva le idee chiarissime sulla situazione e sugli scenari possibili. Ma perché noi non siamo in una situazione ordinaria, siamo in una situazione straordinaria di un pezzo di storia d'Italia, che è la conclusione del ciclo di Berlusconi, del Berlusconi leader politico. Questo ciclo si è chiuso. L'ha detto lui, non si ricandida. Quando ha detto che non si ricandida, ha escluso che questo ciclo continuasse. Dunque no, delle elezioni, no, perché si è chiuso il ciclo di Berlusconi. Bisogna guidare la transizione collocandosi su un terreno diverso. Cioè, quando il terreno della politica non è più praticabile, bisogna scegliere un terreno istituzionale. E Berlusconi, in questo, facendo questo, cioè dicendo che il governo Monti è ineludibile, riconosce che c'è un passaggio storico in cui lui si affianca al capo dello Stato nel governo di questa transizione. Si affianca. Ma è stato costretto anche dalle vicende è stato preso per l'orecchio. Sì, secondo lei il fatto che il titolo Mediaset sia crollato nella giornata di ieri, per esempio, no? Non ha influito su Berlusconi, sulla decisione di Berlusconi? Ha influito relativamente, perché già nel giorno precedente non è che stesse tanto bene. Appunto. L'azienda valeva meno dei suoi debiti, quindi come capitalizzazione di borsa, quando è noto che l'azienda funziona, genera profitti. D'accordo, però quindi questa cosa può avere influito? Un attacco speculativo può avere evidente. Influito? Questa cosa può avere influito sui sentimenti, ma non sulle decisioni. Le decisioni stavano maturando, perché nel momento in cui lui ha detto approvo la legge di stabilità e mi dimetto, ha dato un'indicazione analoga, no? Sì. Quello su cui è cambiato lo scenario è stata l'accelerazione sul nome del successore. Secondo me, se lui avesse detto prima con un discorso parlamentare quello che sta dicendo oggi da fuori, avrebbe influito di più sul nome del successore, anche se l'ipotesi Monti era al suo vaglio da tempo e non c'era giunta del genere di giornali. Mi spiego? Quindi che ci sia stato, cioè ci aveva già pensato lui, non ho capito. No, se quando io le parlo si affianca al capo dello Stato, non è che posso fare, cioè lei dovrebbe capire. No, ma ho capito, si sono parlati. Chiaro, certo. Lei che abbiamo, è un uomo semplice, abbiamo la pubblicità. Non possiamo derogare, si può la parlare affiancandosi. 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24. Abbiamo saputo che Stracquadani appoggerà il governo Monti. Ecco. Il governo Monti dirà sì al governo Monti, perché lo dice Berlusconi. Stracquadani ribatto l'apertura del Corriere della Sera. Esatto. No, ma anche il New York Times in attesa. Anche la CNN. No, ma guardi, la BBC sta già mandando qui i suoi inviati da Westminster per intervistare Honorable Giorgio Stracquadani. Fa una bella. Ma in inglese, come si dice in inglese Stracquadani? Giorgio è lot of money. Pensi che Monti. Guardi, noi l'abbiamo nominato commissario europeo. Sì, d'accordo, non è che ci però vergognare. È su quella base che è stato scelto, perché è commissario europeo. Allora, il ma discorso scusi, di prima dell'Europa. C'era bisogno di nominarlo senatore a vita? Mi dicono che abbia due o tre significati. Alcuni molto nobili, alcuni meno nobili per l'Italia, non per lui. Me li dica. Parliamo di quelli più nobili? Ma uno, sì, uno nobile, qual è? No? Dico, quello nobile è semplice. Non concorrerà alle elezioni. Ah sì, ah, certo, perché sì, una regola del senatore a vita è che quello che non concorre alle elezioni. Vabbè, una regola così, diciamo. Siccome il governo potrebbe teorica, una regola istituzionale, di buon tono istituzionale, di decoro istituzionale, non è obbligatorio. Però, come non ha la necessità di concorrere alle elezioni. Poi? E questa è la più nobile. Vuole la meno nobile? Sì. Potrebbe evitargli di essere, come dire, stuzzicato da Woodcock. No, questo scenario che vuol dire scheletri negli armadi a Monti? No, io non penso. Poi senatore a vita non sono stuzzicato. Perché secondo lei che lei è un giustizialista? No, io un giustizialista. Noi. Proprio perché non ha scheletri nell'armadio, abbiamo una magistratura che interviene spesso a gamba tesa nei processi politici. Potrebbero accusarlo di uno scheletro nell'armadio che non c'è. Ma non è che non mi pare che essere senatore a vita sia una garanzia da questo punto di vista. Beh, quantomeno gli dà è una copertura a cui rinalizia. Ma la patrimoniale la voterebbe, per esempio, che pare che sia una Dipende. Delle cose. Dipende. C'è patrimoniale e patrimoniale. Vuole che faccio quello che ho detto stamattina? No, deve votarli quei provvedimenti, perché se lei si assume la responsabilità. Io chi negozia? Fini parla apertamente di patrimoniale. Sì, ma Fini non è un deficiente, parla, come ha detto lei, no? Esattamente. Come? Sì, la terza carica dello Stato è un deficiente, come ha detto. Non esiste la terza carica dello Stato, ne esiste solo una seconda. La terza se la siamo inventata in un. Si chiama così, si definisce così. Il sempliciotto le ricorda che si chiama terza carica dello Stato. E io che sono un po' più colto di lei, le ricordo che non c'è scritto da nessuna parte. Dunque lei non riconosce Fini come terza carica dello Stato, perché non esiste. L'ho mai riconosciuto che non c'è scritto. Non c'è scritto. Non è la solo una volta. E perché è deficiente? Perché gli manca qualcosa. Cioè, non è competente? Deficie, cioè manca, nel senso latino, da deficio a deficit. Per quella dichiarazione di cui ho parlato, quando lui disse che noi siamo contro la patrimoniale perché Berlusconi è quello che ha più patrimonio di tutti, deficeva di onestà intellettuale. Cioè un mascalzone dal punto di vista concettuale. Ah, un mascalzone. Se uno gli manca onestà intellettuale è un mascalzone. Cioè un mascalzone, del banditismo intellettuale. E via, è la seconda. Il primo motivo. Sì. Il secondo, che gli manca, è deficiente, di cognizioni di scienza delle finanze di base, sì, perché le tasse non sono una cosa di cui si può parlare al bar sport, sì, al bar sport ci si può incazzare se sono tante o poche, ma la cultura, sì, fiscale, insomma, è qualcosa di raffinato. Allora bisogna studiare il significato e il valore di ogni singola misura. Dunque Capra studia, Fini studia, beh, ma ormai non c'è più tempo. Non c'è più tempo. A 60 anni non c'è più tempo. L'avverto, onorevole Stracquadanio, sì, che lei sta per fare un governo insieme alla persona che ha appena definito un mascalzone. Tra poche ore. No, mi perdoni, lui non fa un governo, sta sullo scranno, perché essendo intellettualmente disonesto ha mancato deficiente al vincolo di disonesto, mandato. Mascalzone. Si è costituito un partito da là ed è rimasto seduto sullo scrannetto comodo. Ma guardi, io sono tranquillo. Ma sta facendo un governo con lui adesso. Sarete d'accordo alla fine, però il governo voterà insieme a Fini. Se ne faccio una ragione. Voti. Allora, no, guardi, il problema di partecipare. Ci sono due chiavi in questo governo. No, ma d'accordo, ma non ci sono chiavi, alla fine, Robert, alla fine sarà così, però. Io ritorno libero nel mio esercizio di mandato, non c'ho il vincolo. Dal momento in cui. Ma che fa? Scusi, vota un governo e poi lo affossa il giorno dopo. Nel momento in cui lo varo, dal giorno in cui. E dopo lo affossa il Parlamento. Guardi, se nasce come deve nascere, c'ha 500, c'ha un consenso di 400 e passa parlamentare. E quanto durerà? Sarà difficile, un anno e mezzo, che è quello necessario per fare un programma difficile che nessun governo politico riesce a fare. Lei dice, tanto meno il governo delle sinistre. Il motivo per cui io non sono contro il voto è un motivo strutturale di natura economica. Che accantona l'interesse politico, sì, di Stracquadanio Falco. Siccome è scontato, sì, che vincano le sinistre, sì, per la semplice ragione che da quando nel 94, sì, abbiamo l'alternanza, i governi uscenti sono usciti con le ossa rotte. Il nostro può uscire con le ossa ancora più rotte, perché c'ha un mancato successo perché di 17 anni. Perderemo sicuro. No. Siccome perché ha un mancato, ha detto una cosa importantissima lei. Noi avremo 17 anni di insuccessi. Bravo. 17 anni di insuccessi. Però, sì, ripetiamolo ancora. Non è una notizia, non mi presenti come notizie, non ho notizie. Mi sono stato molto critico, sì, con quelli, ma da sempre, 17 anni di insuccessi. Io ho difeso il leader in tante situazioni, sì, non è che ho difeso tutto. Vabbè, siccome perdiamo, allora, è meglio non votare adesso, c'è anche questo. No, no, no, non è che è meglio. Noi perdiamo e in democrazia è giusto vincere e perdere. Sinistra, certo. Però siccome i mercati temono le sinistre, come hanno dimostrato, allora è meglio togliere anche dalle mani della sinistra il rischio che loro falliscano dopo due anni e dopo ricominciamo noi e si rifallisce e si rifallisce. Cioè sono delle cose difficili da fare. Siccome tutti gli schieramenti politici di destra e di sinistra in Italia attuali hanno dimostrato di non saperle fare, allora proviamo a vedere se mettendoci assieme su un contratto minimo qualcosa di difficile. Però lei starà insieme a quello che ha definito un mascalzone. Cioè, Emilio Fede è con noi, buonasera. Ci sto insieme tutti i giorni. Signor Emilio Fede, c'è il direttore. Sto insieme tutti i giorni. Nell'aula di Montecitorio sto insieme tutti i giorni. Al mascalzone. Ma sa, come sta il direttore? È bandito e anche stupido. Non ho capito bene il ragionamento, mi sono un po' perso perché stavo leggendo delle agenzie. Che stava leggendo? Le agenzie, le ultime notizie, quelle che dice Casini, quelle che dice Bersani, quelle che dice Di Pietro, quel che ridice Di Pietro, quel che non dice Di Pietro. Facci un titolo, direttore, per fare una sintesi. Una sintesi, direttore, della giornata, la sintesi di Emilio Fede. Un titolo del TG4, direttore, per la Zanzara. Siamo ancora in attesa. Siamo ancora in attesa. Ci sono annunciate le dimissioni. Sì, le sì. dimissioni naturalmente collegate poi al voto definitivo del Senato, eccetera. Si mette da parte da un lato, come chiede Bossi. Io, cioè, voglio dire, non escludo che la sorpresa, che poi non sarebbe neanche tanto una sorpresa, sorpresa? Cioè quella poi di elezioni anticipate. Il problema è che le voglio segnalare, a meno che lei non abbia notizie diverse, che Silvio Berlusconi, il presidente del Consiglio fino a sabato o domenica, poi si rimetterà, poi ci sarà l'incarico a Monti, ha già deciso di appoggiare il governo Monti. Sì. A noi risulta questo, a lei? No, io non parlo col Presidente, non lo sento da tempo, non ho un rapporto personale col Presidente. Leggo le agenzie, leggo quello che dice Bersani, leggo quello che dice Vendola e poi mi regolo. Cioè, nel senso che faccio il contrario di quello che dico, penso il contrario di quello che dicono loro. Però scusi, lei pensa il contrario, però il signor Bersani, forse Vendola no perché non ha parlamentari, il signor Bersani probabilmente farà un governo insieme al signor Berlusconi, forse. Io lascio il TG4. Come lasciate di male? Certo che perché vado a fare la politica. Non è stato eletto al TG4, se lo tenga. Non è stato eletto al TG4 lei, non ha un vincolo di mandato, se lo tenga. Scusi, lei sta facendo un passo in più. Perché io oggi ho un vincolo di mandato, lei no. Però oggi dai nostri amici di Un Giorno da Pecora, lei ha detto che se Berlusconi lascia la politica, lei lascia anche il TG4. Ma che relazione lascia la politica, attenzione. La politica, e che vuol dire lascia la politica? Vuol dire non lasciare la politica significa occuparsene, adesso al di là delle battute. È un uomo che comunque, diciamo pure fra luci ed ombre, sì, racconta e ha vissuto 17 anni di vita politica. D'accordo. Si possono attribuirgli delle colpe, benissimo, ma si possono anche, e si devono attribuire dei meriti. Vabbè, ma questo siamo già nel... No, direttore, meriti storici. Vabbè, meriti storici, ha fatto cose inimmaginabili. Questo è vero. Ma nel questo bene, è vero, ha fatto bene, cose inimmaginabili. Ha salvato questo paese da due rischi. Sì. Vabbè, il rischio della sinistra e il rischio della secessione. Ma perfetto, ma guardi che io, quando lui ha il primo appello alla sua discesa in campo, quando dice io voglio vivere in un paese libero, quando incombeva la macchina da guerra, la gioiosa macchina da guerra di Occhetto, c'ero anch'io. Non sulla macchina da guerra. Ma io non lo dicevo perché lei non lo sappia, ma perché questi due apprendisti stregoni che sono qua, siccome non hanno vissuto quelle pagine di storia, avevi il ciuccio in bocca, Parenzo, quell'epoca. No, il ciuccio non capiscono ore. Sa il ciuccio dove l'avevo? Allora le ribadivo. Ribadivo le cose che lei stava dicendo. Scusate per non cadere in battute ironiche che non hanno senso in questo momento, che sul ciuccio in bocca per il paese, per il governo e per tutto. Non si può pensare di liquidare un uomo come Berlusconi soltanto con una campagna, sia pure pensata a tavolino, con la complicità di certa stampa, con la complicità di certa stampa anche estera, però ormai è finita. Forti come le dice Possi, non si può pensare di liquidarlo così in 4-4-8. Però direttore, mi scusi un attimo, mi sembra che ormai siamo alle ultime ore. I suoi sentimenti, quando sono le ultime ore del governo Berlusconi, quali sono i suoi sentimenti? La sua sensazione? Di grande affetto nei confronti di Berlusconi. E quello non c'è dubbio. Sono amico e gli resterò di più amico, non c'è ancora dubbio. Di più, forse mi godrò di più la sua amicizia, visto che poi anziché stare tanti giorni a Roma sarà tanti giorni ad Ancre. Ma vi vedrete di più, questa è una cosa interessante. Io mi auguro di no, io mi auguro di vederlo pochissimo, perché ormai è figlia. Ma c'è più cazzo da fare. Un'altra cosa, poi abbiamo la pubblicità, poi resta con noi. La cosa che voglio chiederti è questa: tu nel momento in cui si fa il governo Monti lasci il TG4? No, ma ci mancherebbe altro. Io ho una grande stima di Monti, una grande stima, ma l'hai detto prima, si fa il governo di unità nazionale con Berlusconi. No, sto dicendo, non mi diverte più, va bene, non so come dire, non mi diverte più la politica che prenda una strada diversa da quella. Sai cos'è? Io faccio un ragionamento che mi ha fatto un telespettatore: ma scusate, c'è un treno che viaggia su binario un po' accidentato e c'è un conduttore di questo treno, improvvisamente si dice togliti e arriva un nuovo conduttore, il quale è certamente bravissimo, ma è un uomo di grande prestigio, di grande competenza economica, però è un nuovo conduttore. Allora la gente si chiede, non io poveretto, sono un piccolo giornalista, ma la gente si chiede, ma scusate, ma perché cambiare in corsa? Voi direte, Berlusconi ha deciso questa cosa, è stato un atto di buonsenso, di rispetto nei confronti del paese, dei problemi del paese, però io credo che un uomo come lui non sia pronto già per andare all'Antigua a riposarsi, come io non sarei pronto. Io voglio finire, ho iniziato da giornalista e finire da giornalista. Chi se ho capito, ma qua allora non è vero che vuoi lasciare, non è vero che vuoi lasciare tra poco il TG4 quando Berlusconi non farà più politica? No, io no, io voglio dire, ho detto, se Berlusconi dovesse decidere di abbandonare del tutto il mondo politico. E quando può succedere? Secondo me, da quel che ho capito dalle ultime conversazioni, fra una ventina d'anni. Poi si vedrà. Come tra una ventina d'anni? Cioè, ancora vent'anni al TG4? Conto, 18, ancora vent'anni al TG4? Come? Ancora vent'anni al TG4? No, per carità, perché io il primo libro che ho scritto c'era Finché c'è fede. I miei colleghi giustamente ci hanno aggiunto: finché c'è fede non c'è speranza. Appunto. Altri vent'anni. Direttore, ci dà una data del suo così la comunichiamo anche agli aspiranti direttori del TG4. Allora, la comunichiamo urbi e torbi, dia una data, quella che ha nella testa. Giugno, dicembre. Diciamo, signor Crippa, sono nato a giugno, non vi dico di che anno. Sì, e allora mi do la data per lasciare la direzione del TG4, passare ad un altro programma che io vorrei fare, e sì, mi si offrirebbe anche un settimanale. Io sono erede sì, di TV7, mitico TV7, con grandi sì, giornalisti come Bruno Colombo, come Brando Giordani, eccetera eccetera. Allora, 24 giugno, nel segno, io sono nato nel segno del Cancro, ascendente Sagittario, poi in questi 20 anni sono stato nel segno del Cancro, ascendente Arcore, però voglio dire, vuol dire che poi troverò un altro dunque 24 giugno, ma di che anno? 2013-14? Di che anno? Io? 2012, no, dico lascia, no, per lasciare l'anno prossimo, certo, sì, perché abbiamo una guardi, ma che quello che viene detto alla zanzara non è che si può cambiare. Ma io, allora, per carità, stanotte una zanzara non mi faceva dormire, era la canzone, ma io sono convinto che anche i miei colleghi avrebbero bisogno di rinnovarsi, appunto, non loro, ma di rinnovare la direzione. E intanto la legge di stabilità è stata approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, va sì, bene, allora approvato, io... esatto. E però scusi direttore, allora diamo un annuncio urbi e torbi a tutti quelli che sono aspiranti direttori del TG4 eccetera sì, eccetera. Il 24 lo dica lei. No, urbi sì, se sono orbi no, perché ha ragione, è anche televisione, ragazzi. Allora, urbi e torbi, via. Urbi e torbi, sordi e muti e torbi. E in questo momento c'è un incontro, credo, da quel che ho capito. No, ma un annuncio urbi e torbi su TG4. Lasciagli fare il cronista. Il 24 giugno lascio. Il 24 giugno del 1912. No, del 2012. Del 2012. Del 2012, sì? Lascio la direzione del TG4. Mi prendo un mese di aspettativa. Vedo se è possibile, studierò che quale sarà il nuovo governo d'emergenza che si metterà al vertice del TG4 e poi deciderò elezioni anticipate o torno. Pubblicità, torniamo subito, rimanga lì, grande. Eccoci qui di nuovo in diretta, la Zanzara, 20:19, 800 24 00 24. Berlusconi, appena uscito da Palazzo Grazioli, ha detto larghe intese, vediamo. Ma insomma è tutto fatto. Qui abbiamo due esponenti del mondo berlusconiano, uno che sta cercando, sempre d'accordo con Berlusconi, una nuova strada parlamentare e politica, che è Giorgio Stracquadanio, e a Milano il nel grande suo studio direttore, il grande direttore del TG. Emilio Fede. Ecco, ascolta, vi interrompo subito perché 19:52, sì? Agenzia, sì. Berlusconi è politicamente in campo e capace di calamitare il consenso di milioni di elettori. Chi l'ha detto? L'ha detto uno che qualcosa credo che conti, Angelina Alfano, alla presentazione. Quello che è in campo, ha aggiunto, è un modo di intendere la democrazia in modo trasparente. Ho capito, Berlusconi, questo è Alfano, però è il segretario del PDL, le voglio segnalare. Nominato, guarda, da Berlusconi. Chiaramente bisogna dire prima chi sarà il premier. Ho capito, però le voglio segnalare, direttore, che è il sostanzialmente il segretario nominato da Berlusconi. È il segretario del PDL nominato da Berlusconi. Ma va benissimo, cioè non ha mai parlato male di Berlusconi il signor Alfano, Chi Alfano? Alfano, sì. Mai parlato male di Berlusconi. Alfano è una persona straordinaria, un uomo per bene. No, guardate, sai che voglio dire, io devo andare via, sì, perché mi dispiace, perché con voi dove va, direttore? Sto bene. Dove vai stasera, direttore? Guarda, te lo posso dire? Sì. No, che concorrente, vado in diretta nelle Fauci del Leoncino, vado, come si chiama, Piazza Pulita. Ah, la sente, bravo. Mamma mia, che battaglia. Come Lotti, direttore, che battaglia, come Lotti. Che battaglia, collegato da Milano però. Come, a Milano, sì, no, mettono le telecamere lì dove vado io adesso. Sei un tirano. E farò questa, parteciperò a questa trasmissione. No, comunque quello che vorrei dire, io a volte ironizziamo in maniera intelligente, sì, vi seguo, vi Ma c'è stata moltissimo. Una querela di Vendola nei tuoi confronti per colpa ma nostra. No, a proposito, la querela di Vendola, ma sapete, vi voglio dire questo per dire a volte con chi ci confrontiamo. Io sì, ho sempre difeso il mondo gay, ho detto, appunto, che forse fra i miei più amici, più intelligenti, più cari sono gay. Sì. Quando come si chiama l'onorevole Concia si è sposata, sì. Sì. O perlomeno col suo matrimonio, io sono stato il solo a dare immagini, notizia, senza il minimo di ironia. Hai fatto un po' di battute, su Vendola, dai. Ma sapete che la Concia, pensate il senso di libertà e di democrazia che c'è dall'altra parte, che ma facciano ridere i polli. La Concia mi ha denunciato all'ordine dei giornalisti dicendo che ho offeso il mondo gay. Ma roba, no, da matti. Non ricominciamo. Sapete, direttore, cosa mi fa paura dall'altra parte? Questa aggressione continua, questa mancanza di ironia, questa voglia di aggredire, questa voglia di guarda, credetemi, sono uno che da sempre, pur sapendo che certamente al mondo cattolico non fa piacere, ci sono persone e io le mando in onda, si sposa la Concia e io ne parlo. Sì, magari lì ci fu qualche battuta di troppo, no, nei confronti di Vendola. Dire, l'ho querelato, io ho querelato Vendola, ma come caspita fa a dire che io sono un procacciatore di droga? Ma dico, ma che? Ma dico, e mi querela la Concia. Guardate, io spero che veramente... Però direttore, io le segnalo che non con Vendola, però con la Concia, lei, il suo presidente Berlusconi sta facendo un accordo politico adesso. Non no, è no, che la io la difendo la Concia, l'ho difesa, non capisco come subito si va a base di querele, di insulti, di cose. Anche lei. Però anche Vendola è a favore del governo Monti. Mi dice una parolina. Mi dice una parolina sulla signora Carlucci? Se io dico di Vendola che è un procacciatore di droga, mi fa 70 querele, dà ragione. Come fa a dire che io sono procacciatore di droga? E che ne so, quello ne risponderà in tribunale. Ne risponderà perché mi ha rotto i coglioni uno che dice questo. Dicendo di Vendola, lo avrei detto di chiunque, mi è stato detto, fuori il mondo gay! E qui, porcaccia la miseria, se vanno al potere... Dio me ne scampi e liberi. Vanno al potere insieme a Berlusconi, pare. Come? Vanno al potere insieme a Berlusconi. Deve fartene una ragione, direttore. Pazienza, mica sono obbligato io, no? Non è che, comunque, scusi, però, direttore, io le voglio chiedere un'altra cosa prima che lei ci dia. Sì, l'ultima. Me la sono scordata anche. No, io volevo dirgli che anche Vendola ha detto che sostiene il governo Monti a tempo. Quindi a tempo, Fede è un alleato di Vendola. Se le faccio una ragione. Ma perché no? È simpatico, è intelligente. E allora perché chi gli passa? Perché quando si va in pubblico. Ritiri la querela. La querela. Faccia un appello a Vendola. Ritiriamoci le querele tutti e due. Sì, ma Vendola ritiri la querela. Guarda, non intervenga su questo. Ma assolutamente. Sentite, voi mi scusate, perché veramente poi Corrado Formigli lì, poi è in diretta e voglio parlare di questa... Certo. Faccia piazza pulita, direttore, mi raccomando. Anche piazza pulita. Vi auguro buona serata. Saluto Stracquadanio, c'è ancora in linea? Sì, grazie. Bravo Stracquadanio. A presto. Ti guarderò stasera, mi raccomando. La data l'hai data. 24 luglio del 2022, io mi dimetto. No, a 2012 ha detto. Come? 24 giugno 2012. No, gliel'ho chiesto io 2022 perché non me ne vado. Non me ne vado, per carità. Se 50 anni di televisione, 27 di Rai. Nel 2012, il 24 giugno, giusto? Sì, l'hai detto. Certo, 24 vai giugno. A fare il settimanale e ti dimetti da direttore del TG4. Al tuo posto chi arriva? Chi arriva al tuo posto? Al mio posto? Sì. Rimane tra di noi? Chi vorresti? Sì, certo. Adesso. Arriva Emilio Fede. Buonasera a tutti. No, grazie. Certo che non è che mi dimetto, lascio l'incarico, l'emissione è una parola pesante, perché è giusto che ci sia un confronto diverso fra redazione e un nuovo direttore. Quando arriva qualcosa di nuovo, adesso vi addio. Okay, ma chi arriva al posto tuo? Chi arriva? Chi mettono? Non lo so, un giovane. Lo sceglierà lui. Lo dirà il TG4 come anticipazione, ma ma lei chi è l'esigetto del TG4? Ma no, io solo faccio un po' di giornalismo. Ma c'è anche tanta gente brava che Stracquadanio dire... potrebbe fare, è giornalista, potrebbe fare il direttore del TG4? Stracquadanio come idea politica mi piace. Appunto, Stracquadanio direttore del TG4, bellissimo. Io guardi, anche scusa, vuole chiedere perdono a sua moglie per qualche marachella che ha fatto? Sì. No, io voglio chiedere perdono a mia moglie perché le ho rovinato la sua vita, nel senso che ho bruciato la sua giovinezza, perché io ho vissuto da inviato speciale quasi tutti gli anni. No, ma anche vita, per qualche marachella recente. È una donna straordinaria alla quale non è che devo chiedere scusa, devo chiedere, cara Diana, perdonami. Ma anche per le marachelle recenti. Marachelle recenti non l'ho fatte, ma la mia età, che marachelle fate? Scusi Fede, ma lo sa la battuta più straordinaria che ho sentito in queste ore? Lo sa qual è questa? No. Allora, il nuovo governo ci sarà una mucchiata, no alla mucchiata, alcuni dicono no alla mucchiata, però Berlusconi la mucchiata non è che le... No, posso le dire, disdegna. Posso che dire, per, con, no, posso dire per concludere, ha ragione Ostellino nel dire, bravo, ha detto un editoriale, bravo. No, ascolta, ha detto non tiriamo fuori che tutto questo che accade a Berlusconi accade per le cene ad Arco. Ercole, c'è ben altro che è stato organizzato dal punto di vista di una stampa di qua, i poteri forti di là, lo hanno aggredito per le scene, guardate, per le scene ad Arco, quando però fuori la verità, sì, guardate, è stato, per carità, non voglio pensare che un paese possa tentare di cambiare il governo solo per questo. Vi voglio bene, non posso farvi ridere, vi saluto. Presto, in gamba. A presto. Stampadani fa un tifo pazzesco per Emilio Fede, sì, è una cosa. È una persona di una linearità assoluta. Beh, questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. E volevo approfittare. Dipende dove va la linea, sua, no? Non si preoccupi, lei dovrebbe almeno conoscere di questa sua linea. Approfittare della citazione di Ostellino, perché un altro articolo di Ostellino. Che credo che sia un articolo straordinario. Non ci ammazzi la trasmissione. Che era sulla Non glielo ammazzo. Dica. Che era sulla scrivania del presidente Berlusconi, tra l'altro. Sì. Quello dove si dice non creda nessuno in Italia che il problema è Berlusconi, perché forse quelli che verranno dopo di lui sono molto peggio, sono il ritorno del passato. Berlusconi appoggia, poi dobbiamo chiudere, appoggerà sicuramente il governo Monti, ed è meglio appoggiare un governo istituzionale, fare un accordo politico, un accordo istituzionale a tempo, piuttosto che la battaglia politica, perché? Piuttosto che rischiare, come più probabile, un governo delle sinistre che manderebbe l'Italia in default. Però per Berlusconi perché è più conveniente? Perché in questo modo riesce a salvare anche il proprio patrimonio politico, onorabilità, patrimonio politico, persona, rischi giudiziari e rischi patrimoniali. Noi dobbiamo preservare l'accordo istituzionale, un pezzo di storia. Non so se c'è l'accordo. Io lavoro per crearlo. Perché un pezzo di storia d'Italia che è Berlusconi, che ha detto bene Alfano, è tuttora in campo, perché è ancora in campo con la sua forza, perché questo pezzo di storia d'Italia così importante non sia trattato come una parentesi da dimenticare. Ma finiranno i processi nei confronti di Berlusconi? Io mi auguro che noi si faccia. Cioè, dal momento in cui Berlusconi sparisce dal governo, finiranno i processi? Il Parlamento sia ragionevole e faccia una legge semplice, che dice che i termini di prescrizione di un processo non possono essere tirati in lungo e in largo a piacimento. Vabbè, questo che ci sarebbe il lodo Berlusconi. E questo manda lo scudo manda in soffitta il processo Mills definitivamente. Cioè dice che bisognerà fare uno scudo allora. Io dico che bisogna togliere dal campo della battaglia politica l'intervento pesante della magistratura. Questo Monti lo deve fare. Ma quindi c'è l'accordo, è uno dei temi che dobbiamo. Non ho capito, uno dei termini dell'accordo è votiamo il governo Monti, però ci fate anche lo scudo? No, è uno dei temi di riflessione che io faccio. Ne ho parlato con Berlusconi. Sì, ne ho parlato. Vabbè, questa è notizia. Berlusconi vorrebbe il governo Monti. L'ho detto io, scusate. Vorrebbe dal governo Monti una cosa. C'è notizia. Non lo so. Vabbè, non lo so. Adesso c'è un'acqua tutto. La notizia è lei non mi dice. Le dico la verità. State ragionando la verità. Certo. Io ho proposto a Berlusconi, votiamo il governo Monti. Un ragionamento per il quale questo governo che nasce e il nuovo Parlamento devono mettere fine all'uso politico della giustizia. D'accordo. Fare uno scudo per farlo, questo il punto chiave lo deve fare. Condizio sine qua non per votare Monti. Condizio sine qua non per votare Monti. Su questo non lo so. Ragioniamo. Grazie. Pubblicità. Grazie a Giorgio Stracquadano. Torniamo tra un attimo per l'ultima mezz'ora della Zanzara. Siamo qui, 800-24-00-24. Diego da Modena, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Diga. Complimenti per la trasmissione, fortissimi. Io ho perso l'ultima mezz'ora, quindi mi scuso. Non si preoccupi, dica pure, vada veloce. Se il mio intervento è un po' fuori tema. Nomina di Monti, volevo soltanto ricordare a molti italiani, Borghezio parte perché lui si commenta da solo, che non esisteva altra alternativa. Mi spiego meglio. Goldman Sachs, i peggiori mostri che vengono dipinti così ormai da molti, avevano dato uno spread di 500 punti con Berlusconi di nuovo al governo, 350 punti con Monti al governo, il fallimento totale, il default dello Stato nel caso in cui avessimo anticipato nuove elezioni. Tutto qui, volevo ricordare solo questo, quindi mi pare che non ci fossero molte alternative, le elezioni oggi sarebbero state il male assoluto. Ecco, solo questo. Va bene, grazie. Carlo, provincia di Bologna, buonasera. Buonasera a lei. Senta, io volevo ringraziare una persona in questo momento che non ho ancora sentito ringraziare da voi, che è la signora Veronica. Perché è la signora che ha salvato l'Italia dal fallimento. È veramente una riflessione. Perché? È lei che ha innescato, è l'unica che è riuscita in qualche modo a salvare il paese, a innescare una crisi che poi si è riversata con attacchi più o meno giusti da parte della magistratura, non sto a sindacare, però è quella che in qualche modo ha creato e ha messo in difficoltà il Premier. E quindi rivendica, secondo me, un ruolo della donna nella società di oggi. Assolutamente sì. Assolutamente va bene, grazie. Luciano, grazie da Roma, buonasera Luciano. Buonasera a tutti dica, e due. Dica. Volevo chiedere a Parenzo se dalla settimana prossima si sentirà un po' disoccupato, visto che non potrà più attaccare il governo. No, ma io sarò occupatissimo a vedere e a monitorare dallo scranno della zanzara col direttorissimo Crociani se questo governo manterrà gli impegni presi, cioè riforma delle pensioni subito, questo liberalizzazioni, governo, fermato, quello, che sarà il fermato. Governo, quello che sarà il governo di salute pubblica, di salvezza nazionale, il governo che rimetterà il Titanic, lo raddrizzerà. Mi sento ancora occupato, Parenzo. Mi sì. sento occupatissimo. Metta il cuore in pace. Fantastico. Amico mio. Poi il Borghese non si deve lamentare se di tanto in tanto lo prendono a bastonate, visto quello che ha detto ieri sera. No, ma nessuno va preso a bastonate. Bastonate dialettiche sì, ma nessuno prende a bastonate nessuno. No, le meriterebbe le bastonate, Borghese. No, non diciamo e cose. E probabilmente anche l'esame antidoping, perché probabilmente un esame antidoping rivelerebbe che probabilmente no, guardi, non era normalissimo. Guardi non diciamo tutto si può dire tranne che Borghezio assuma sostanze stupefacenti. Ah, lei dice che è così naturale? Assolutamente, assolutamente così. Anzi, glielo faccio riascoltare, guardi, glielo sì, faccio da Milano. È terrificante questo. Guardi, mi carica, mi devo dare la carica, bravo. Devo andare alla versione di Banfi, a Rete 4, dobbiamo andare tutti e due, io e Parenzo. Fra la fine della trasmissione dobbiamo caricarci, dobbiamo sì, caricare sì, un po', ci dobbiamo caricarci caricare. A pallettoni. Borghezio ieri alla Zanzara su Monti. Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Filippo da Grosseto. Padania libera. Libera. Libera. Subito ieri. Via Roma. Puzza. Roma puzza. Ciolo la Padania. Ciolo sempre ciolo la Padania. Se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera. Libertà, libertà, libertà. Non riesco a fermarlo. Questo non era su Monti, naturalmente era l'impazzimento finale di Borghezio, però io manderei anche quello su Monti. A Mario, te conviene rifiutare, te lo dice Italia Profonda. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera, non vanno a votare. E questo dice il popolo di Roma. Ancora, ancora. Ora Borghezio. E conviene rifiutare. Che cazzo ti tieni sta medaglietta che non serve un cazzo? E poi sto governo, sto Parlamento, chi lo sa quanto dura? Meno dura, meglio è. Vabbè, insomma, il tono era questo. Giancarlo da Pordenone. Buonasera, Giancarlo. Buonasera. Dica. Sì, no, io volevo dire di Monti che mi pare la soluzione più opportuna in questo momento, un po' di confusione totale. Io così. Mi sento di dire anche un po' da esperto di diritto costituzionale che non ci vedo tutto questo gran can che fanno anti-suffragio universale, anti-elezioni, ribaltone, insomma. La storia costituzionale ci dice che questi governi ci sono stati e sempre ci saranno, insomma. La Costituzione non è mica cambiata, Abbiamo cambiato le leggi elettorali, ma la Costituzione è sempre quella. No, ma chi dice, scusi, che ci sono problemi costituzionali? Non ho capito. Nessuno. No, dico, quando si sente parlare, adesso Berlusconi ha cambiato idea, ha detto mi va bene Monti, ma fin l'altro giorno, se non ci sono le elezioni, si va contro la volontà popolare, insomma, tutte queste un po', mi lasci perdere il termine, cazzate dal punto di vista del diritto costituzionale. Ma no, la Costituzione non impedisce certo di fare un altro governo, l'hanno già fatto, ma non è quello il problema. Nessuno poi ha sollevato questa obiezione. Sì, insomma, se ci fosse un governo con altre forze politiche che non sono state, come dire, no, un governo di centrosinistra, un governo senza l'appoggio della maggioranza, d'altra parte di questo è consapevole Napolitano, tant'è che vuole fare un governo Monti solamente se c'è il PDL, comunque una forza, la forza più grande della maggioranza, certo non c'è la Lega. Maurizio da Brescia, grazie Giancarlo. Buonasera dottor Panenzo. Ascolti, come ci sono 60 milioni di commissari tecnici per la nazionale, adesso ovviamente ce ne saranno almeno 30 per l'idea di governo, e io sono uno di questi, cioè, secondo vabbè, me... dica la sua, non si vede alcun il mio governo tecnico, fatto da tecnici eletti da una maggioranza parlamentare più ampia possibile. Sì, che non poi esiste fa governo tecnico, lei lo sa, no? Il governo tecnico è sempre votato in Parlamento da politici, sì, dunque è comunque un governo certo, politico. Un governo tecnico con persone di elevato profilo, sì, riconosciute internazionalmente, sì, elette, approvato la formazione del governo da un più ampio schieramento parlamentare, i quali poi fanno il famoso passo indietro, cioè contingentamento della classe politica, per cinque anni governa questo Maurizio, sono i politici che devono approvare i provvedimenti in Parlamento, ha capito o no? Sì, cioè fanno atto di fede, cioè si impegnano ad approvare. Maurizio, grazie, perché... Ernesto da Lecce, grazie Maurizio, Ernesto da Lecce. Pronto, sono qui. Dica. Dunque, rapidamente, intanto complimenti perché vada che ho il traffico da mandare. E quindi la proposta che faccio è molto provocatoria, ma che faccio a Monti, è quella di cosa si chiede un amministratore di una società? Di compiere azioni del buon padre di famiglia, di amministrare bene. Siccome dal mio punto di vista Berlusconi non ha amministrato bene l'Italia, che dobbiamo fare? Una semplice legge, acquisizione al patrimonio dello Stato di Mediaset, di tutte le società Mediaset. Bravo, ha detto, indennizzare ha detto la stronzata delle 20:44. Esatto. Cioè, però è una proposta che vendere Mediaset e lei non doveva rispondere così. Ma non è una Stronzata. Ernesto, è una stronzata, io lo dico con leggerezza, con tranquillità, con affetto, con affetto anche. L'abbraccio fortissimo. Eccoci per l'ultima parte della Zanzara su Radio 24, caro Parenzo. Che puntata che ha fatto, direttorissimo, che puntata! Allora, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, come sapete. Dai, andiamo, vabbè, lo sanno, però lo ripeto sempre, è utile sempre ripeterlo. Mi piace anche il modo come lo dice. Andrea, ci chiama da Carrara, mi sembra. Il signor Andrea è un ascoltatore. Carrara fanno il marmo a Carrara. Beh sì, non fanno solo il marmo, credo. Vabbè, però. Caro Andrea, dica. Buonasera a tutti, innanzitutto. Buonasera. Ecco, no, io sentendo così un po', leggendo su web i primi commenti sia da parte della destra che di alcuni esponenti della sinistra, in cui insomma sono tutti più o meno favorevoli a un'eventualità in cui Monti divenga Presidente del Consiglio, comunque possa formare un governo... Beh, non tutti favorevoli, come ha sentito anche stasera, non tutti favorevoli. Ma quelle sono, dai, sono dichiarazioni di facciata, ma voglio dire, nel periodo... Lei dice che ormai è fatta, sì, cioè fatta, PD, PDL, dai, UDC sono d'accordo, dai, Terzo Polo sono d'accordo. Nel periodo di più grossa crisi mondiale, dalle guerre puniche in poi, cosa fanno? Anziché tagliare i costi vanno a nominare un altro senatore. È chiaro che hanno già deciso che questo Monti farà o cercherà di condurre un governo tecnico. Allora io mi domando una cosa, molto a parte che il fatto che quando la sinistra e la destra sono d'accordo su qualche cosa, già questa cosa qui è sospettosa. Beh, insomma, dipende su cosa. Dipende, per l'amor di Dio, lasciamo aperte le porte. Vabbè, allora? Ecco, io volevo dire questa cosa qua, ma un governo tecnico, nell'eventualità di un governo tecnico, ma insomma, voglio dire, ma non mi pare che Tremonti sia un igienista dentale, mi sembra che Tremonti sia un top manager, quindi noi tecnici al governo ce l'abbiamo di già, se poi il nostro paese, il nostro governo... Tremonti non ha proprio il profilo del tecnico, certamente ha una figura... Vabbè, però, insomma, è competente, dai. Ma ho capito, ma non è qui non è in discussione la competenza. Tremonti ha fatto parte di una coalizione che non ha più la maggioranza ed è molto difficile che faccia parte di un governo. Ed era la principale causa della crisi della maggioranza, né la principale causa. No, la divisione con Berlusconi, una delle cause è la divisione con Berlusconi, non Tremonti in assoluto. No, non è la causa delle divisioni della maggioranza. Andrea, grazie. Giuseppe ci chiama da Udine, buonasera. Buonasera. Dica. Sono un imprenditore, volevo telefonare a proposito dell'intervento di ieri sera di Borghezio e dell'atteggiamento della Lega. L'abbiamo anche risentito oggi, no? Sì, la Lega vuole rappresentare gli interessi degli imprenditori del Nord e dei dipendenti del Nord, ma non tiene conto del fatto che questa crisi può essere risolta solo da un governo tecnico, in quanto necessita di misure incredibili. È un punto di vista, Giuseppe, è un punto di vista. Sì. Naturalmente le prime frasi di Monti, pronunciate credo ieri a Berlino, fanno immaginare una ricetta lacrime e sangue. Poi, come ho già ripetuto più volte, una cosa è fare il professore, una cosa è fare il primo ministro. Bisogna vedere quali provvedimenti verranno portati al Parlamento e quanto spazio avranno per essere approvati, eccetera, eccetera. Ma comunque... questo il governo del presidente. Sì, però cioè facciamo, il governo facciamo di finire il signor chiedo, Giuseppe. Scusi, Giuseppe sì, da Udine, no, sono lacrime e sangue, però l'alternativa oggi è che le banche non prestano più soldi alle aziende, le aziende chiudono e ci sono 5 milioni di disoccupati, capisce? Sì, allora non, ecco, è che arriva, non è che arriva il professor Monti e risolve tutte queste cose con la bacchetta magica, eh? Alcune cose non è che possono essere risolte semplicemente con dei provvedimenti o con un altro governo. Comunque, insomma, vedremo, Giuseppe. Lei ha fiducia, mi sembra di capire. Ma guardi che sembra difficile, ma è il gioco delle tre carte. Una patrimoniale, no, lei ha fiducia, mi sembra di capire, in un governo tecnico nel professor Monti. Ma sì, ma con una patrimoniale semplicissima e banalissima si risolve tutto. Ma mi creda, se vuole glielo spiego in 30 secondi. Beh, però mi scusi un attimo, non è che facciamo un governo tecnico solamente per la patrimoniale, eh? Cioè, mi sembrerebbe così piuttosto bizzarro. Se fosse così facile, facciamo una. Mi stava spiegando, però, tecnicamente la patrimoniale, allora, come la farebbe? Allora, la patrimoniale è il gioco delle tre carte. Si pensa, professor Travellini, che si deve dare 20 miliardi togli ai ricchi per darli ai poveri, diciamo cuneo fiscale. Adesso, lei invece 20 prende miliardi 20 per dare ai ricchi ai poveri, che vuol dire? Scusi? No, questo è la patrimoniale ipotizzata dal professor Travellini, 1% l'anno, che la Camusso dice farà diventare ricorrente. Io le dico che facciamo finta che lei sia il ricco e che Parenzo sia il povero, mi scusi Parenzo. No, lei ma deve dare, è verosimile. Lei deve dare 2 lire a Parenzo, alla fine di 10 anni lei ha 20 lire in meno e Parenzo ha 20 lire in più. Io le dico, metta le 2 lire in una scatola e Parenzo le va a prendere in quella scatola l'anno dopo. Parenzo ha sempre le 2 lire, lei ha sempre messo le 2 lire, ma io le dico che in quella scatola restano ancora altre 2 lire. Vabbè, Giuseppe, devo riflettere su questo suo ragionamento. Io preferisco avere le 2 lire in tasca anziché prenderle un anno dopo. Comunque mi piace l'idea. Grazie Giuseppe. Mauro ci chiama da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani, allora dica. Qui va via Berlusconi, d'altra parte tutti in Italia saranno anche contenti perché così verrà qualcuno che migliora le cose. Arriva Mario Vedremo. Monti, sì. A parte il fatto che Mario Monti ha un profilo straordinario, fra l'altro è senatore a vita da 5 minuti per cui ha aggiunto questa carica anche al cavalierato di Gran Croce, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica, ha un pedigree assolutamente insospettabile. Gran persona, ci rappresenterà al massimo anche nelle sedi mondiali. Ma non le sembra che sia un po' sospetta la faccenda che, contemporaneamente al fatto che diventerà presidente del nostro Consiglio, è anche presidente europeo della Trilaterale? E quindi? È presidente membro europeo del comitato direttivo ristretto dei Bilderberg. Ma è international della... advisor della Goldman Sachs. Ma non è la sacra corona unita la Goldman Sachs? Ma che dici? Lei è pazzo! Aspetta, fallo finire. Ma cosa dice delle robe? Quali sono, per lei queste cose sono cose inquietanti, Mauro? No, ma queste sono cose che aumentano lo spessore della persona. Io sono qui per dirvi, cacchio, ma Mario Monti, ma è una roba superlativa. Questo è un missile, questo è Batman. Allora io mi chiedo, l'Italia nella situazione di crisi che viene sempre vista come un paese in fallimento, con un debito pubblico che questi cazzoni di politici hanno scatenato negli ultimi 30 anni, è una roba incredibile, ma non pensate forse che questo debito pubblico, visto che ci sono di mezzo Monti, Berlusconi, che anche lui come massone non è niente male, e tutto il resto, non pensate che sia una cosa anche un pochino, se vogliamo, non dico indotta, ma consigliata fortemente dai canali finanziari internazionali che hanno messo l'Italia, la Grecia, la Spagna, tutti questi paesi piano piano in debito. Il debito si controlla dice, con tutta le emissioni una crisi di moneta, costruita, la stampa, la BCE, ma che cazzo stiamo a dire? Meno male che siamo alla fine. Siamo mi sembra male che deve chiudere, direttorissimo. Mettendo con la vaselina, dobbiamo chiudere. Grazie. Ci sentiamo domani. Forse, ci sentiamo domani. Ci saremo, non lo so. Se la grande finanza non elimina anche noi. Bravo, esatto, la grande finanza globale. Ci sentiamo domani, 18:30. Guadagna libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Filippo da Grosseto. Guadagna libera. Libera. Subito, ieri. Via da Roma. Puzza. Roma puzza. Ciao la Padania. Sono sempre solo la Padania. E gli altri non ce ne frega un emerito